benvenuto a voi. Professore, ho bisogno di lei, perché Antonella da Lucca ci scrive: la mia insegnante di danza mi ha suggerito di bere al posto dell'acqua, porto sempre con me una bottiglietta, ci scrive tra parentesi, del tè verde. Da anni sento parlare di questo tè, ma mi chiedo, deve essere proprio verde per far bene o basta anche il tè normale? Effettivamente il tè verde ha delle marce in più rispetto al tè nero. Perché? Perché il tè verde viene ottenuto per essiccazione diretta delle foglioline senza sottoporle a fermentazione, e questo gli conferisce caratteristiche particolari, perché contiene dei composti che prendono il nome di catechine, che hanno appunto delle proprietà benefiche maggiori rispetto a quelle del tè nero. Da tempo sono note le proprietà antiossidanti del tè, cioè quelle proprietà utili al fine di prevenire le malattie indotte da uno squilibrio tra radicali liberi e difese contro di questi, poi le attività anche antiproliferative, anche l'attività di controllo del peso corporeo. Cioè addirittura. Il tè verde, anche il tè nero in realtà, ma soprattutto il tè verde, aiuta a smaltire i grassi. Poi il tè, non dimentichiamo, contiene caffeina, che è un altro agente che aiuta a smaltire grassi. Ecco, mi scusi professore, dato che siamo in tempo di dieta, quando si sente smaltire i grassi, ridurre dimagrire, siamo tutti subito con le orecchie in piedi. Ma bisogna berne quantità industriali o no? No, se è un consumo regolare di tè, direi una o due tazze al giorno, però ovviamente tutto questo vale nell'ambito di una dieta moderata e stile di vita attivo, cioè non possiamo mangiare esagerato, essere sedentari, poi bere il tè e pretendere che il tè faccia qualcosa. Ecco, quindi non è miracoloso, va inserito in una dieta equilibrata, varia, con movimento. Ecco, meno conosciute sono invece le proprietà del tè in merito ai grassi e ai lipidi, cioè al colesterolo e i trigliceridi plasmatici. In realtà diversi studi degli ultimi anni su riviste prestigiose hanno dimostrato, studi fatti su modelli animali, che le catechine del tè verde riducono la sintesi del colesterolo, l'assorbimento intestinale del colesterolo e attenuano la crescita postprandiale, dopo pranzo, dei trigliceridi. Quindi questi risultati sono estremamente interessanti e forniscono una spiegazione al fatto che chi consuma regolarmente tè verde, quelle quantità che dicevo prima, un paio di tazze al giorno, ha una protezione a livello del sistema cardiovascolare, perché i fattori di rischio in parte sono diminuiti. Però ecco, non diciamo che fa miracoli, è sicuramente utile. È un aiuto, Anche il tè verde ci aiuta a stare meglio. Professor Pietta, la ringrazio per essere stato con noi. Torna domani a Essere Benessere. Per oggi vi ringrazio e vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.